4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Amici dei motori, buonasera, bentornati a un'altra trasmissione dedicata interamente ai motori e insomma al nono anno che vi facciamo compagnia insieme agli amici di Quattro Ruote ogni sabato alle 21. Vi ricordo il nostro sito internet radio24.it e una mail vi proietta direttamente nella nostra redazione motori, così da chiedere e esporre dubbi o problemi o per raggiungere il nostro avvocato. quattroruote@radio24.it. Iniziamo la grande con quello che è considerato il primo festival in assoluto dedicato ai motori nel cinema. È quindi un festival di nicchia, però una nicchia che ha tantissimi appassionati, che ne dicano gli amici di calcio e di tante altre discipline. Sappiamo che insomma qui i fan di motori possono gustarsi la loro vendetta. Si chiama Civita Film Festival e ne parliamo con quello che è l'anima, l'ideatore, un giornalista, tra l'altro un collega. Allora ciao a Leonardo Metalli. Buonasera Leonardo. Buonasera a tutti voi, mi fa molto piacere di essere stato per la prima volta contattato in un contesto che riguarda proprio i motori, anche perché è un po' la mia passione, quindi intanto un saluto a tutti, la mia passione perché io sono appassionato di auto e moto d'epoca e di tutto Ottimo. Quello che insomma... motori d'epoca. Bene, una passione che condividiamo con tanti ascoltatori che da tempo ormai ci fanno compagnia. Vogliamo descrivere intanto, facciamo così, partiamo proprio dall'ABC, una bella definizione di Civita Film Festival, così butti dentro anche le date, giornalisticamente facciamo un buon lavoro. Perfetto, guarda allora, parto dall'inizio senza essere troppo prolisso perché la storia è anche appassionante ma lunga, è nata tutta in un servizio che io come tutti noi giornalisti insomma girando per battendo la penisola in tutti i suoi meandri sono quasi capitato a Civita di Bagnoregio dove avevo saputo che c'era stato praticamente hanno girato il film di Fellini La Strada. Sì. E La Strada ha come protagonista oltre che Anthony Quinn un carro diciamo così che all'epoca era stato costruito da un signore e abbiamo scovato questo carro. Allora Civita è diventato un po' l'emblema diciamo, di questa cosa del motore nel cinema perché La Strada è il primo road movie italiano insieme, ma il primo in assoluto perché poi uno dei road movie più importanti diciamo che sono considerati sono quello è il sorpasso di Dino sì, Risi, sì, molto per citato da voi pensa che sembra che abbiano copiato anche altri film come Easy Rider, insomma è un film che è rimasto nella storia, tra l'altro è stato un premio Oscar del 57 La Strada, quindi da lì mi è venuto in mente, dico perché non andiamo a trovare una cosa che non è mai stata fatta, cioè mettere insieme le passioni, la passione per i motori con la passione per il cinema, questo è proprio il postulato e ho fatto due conti, ci siamo organizzati, abbiamo pensato che l'unica cosa era quella di contattare l'associazione delle auto storiche, l'ASI, sì, e gli esperti di cinema che potevano in qualche modo mettere in piedi un'idea. Questa più che una rassegna legata al cinema è una rassegna legata ai motori, ecco perché può essere interessante anche per il vostro pubblico. Decisamente, diciamo subito per quando avete previsto l'inizio del festival. Dunque, noi abbiamo fatto un'anteprima un po' di tempo fa, e che è presso l'associazione Civita che è partner nostra con la Civita Film Fest che è la nostra associazione e abbiamo pensato verso giugno diciamo che le date sarebbero dall'11 giugno in poi, 3 o 4 giorni in cui noi praticamente raccogliamo tutti gli appassionati del settore, ci saranno appunto tutti i collezionisti, tu immaginati che ad esempio per farvi una citazione sì, diciamo così Bulgari è uno dei più grandi collezionisti diciamo internazionali perché va oltre all'Italia di macchine americane, quindi lui ha dei garage pazzeschi, investe ogni anno, io sono stato vederli, ti dico una cosa impressionante migliaia di metri quadrati tutti dipinti di bianco, tutto asettico con i meccanici in camici bianchi dove dentro ci sono queste macchine americane ce ne ha, mi sembra 300 o 400. Certo, mamma mia. Insomma, ma anche Renzo Arbore per esempio l'ha Laurito per esempio, vero? Sì, ci stanno da noi diciamo sono i nostri come dire sostenitori sono Renzo Arbore che è il collezionista ad honorem perché lui colleziona quasi tutto praticamente, poi è iscritto all'ASI con la sua 500 e c'è un club delle 500 come voi ben sapete, così come c'è il club delle Ferrari, delle Porsche e quant'altro. E poi ci stanno tantissimi interessi che si uniscono, che si congiungono da fra motori e cinema, bellissimo. Senti, sì, le tappe di avvicinamento quali sono? Così poi ci salutiamo e diamo appuntamento a giugno. Sì, guarda, le tappe di avvicinamento saranno una serie di eventi che noi faremo a breve distanza, che riguarderanno un po' i collezionisti, un po' gli appassionati, siccome ci saranno anche le case automobilistiche interessate, perché faremo anche un premio legato allo spot promozionale, che la campagna promozionale legata ai motori, che comunque è sempre legata anche al mondo della comunicazione, video, audio e quanto altro, ma soprattutto video, perché sai, molte campagne hanno dietro un lavoro grossissimo, no? Queste che vediamo delle automobili, forse sono tra i più grandi investimenti del mondo pubblicitario, le campagne diciamo automobilistiche. Dopodiché c'è il festival vero e proprio, dove insomma si vanno a incontrare tutti quei film, tutte quelle pellicole che contengono i motori. Sì, sì, a 360 gradi in questo senso. Molto bene, questo è Civita Film Festival, si terrà a giugno del 2010, ci risentiremo sicuramente prima. Per ora grazie davvero a Leonardo Metalli, l'organizzatore. A prestissimo, Leonardo. Sì, magari per raccontare quello che accade, anche perché come abbiamo detto questo è il primo ed unico festival, non ce ne sono altri, quindi insomma è una cosa di nicchia, ma che comunque interesserà tanta gente. Molto bene, grazie, grazie. Per l'attenzione. A prestissimo fra motori e cinema, ma rimaniamo nel vedere auto di qualità attraverso un museo Nicolis. Abbiamo al telefono Silvia Nicolis. Buonasera Silvia. Buonasera. Ha attirato la nostra attenzione, Silvia, il mito dell'automobile italiana, una retrospettiva che tanto è visitabile presso di voi, adesso lei ci dirà dove esattamente, fino al 30 ottobre, ma la cosa bella è che è una specie di mostra interamente dedicata alle migliori, alle più belle, alle più riuscite auto della storia italiana, vero? Esatto, allora il Museo Nicolis si trova a Villafranca in provincia di Verona. In realtà quello che noi abbiamo allestito è comunque un percorso itinerante che porterà il visitatore a visitare comunque 5 fra i più importanti musei d'Italia, e per noi è una riconferma della collaborazione con Galleria Ferrari, con cui abbiamo anche già allestito 2 importanti mostre, Alberto Ascari e Magic India. Quindi abbiamo desiderato proprio allestire una mostra che valorizzasse il patrimonio storico e culturale italiano dell'industria automobilistica, che è molto importante, quindi è giusto insomma fare conoscere anche questi aspetti che hanno reso importante la storia dell'automobile. Decisamente. Allora entriamo nel vivo, come è stata organizzata questa mostra e quali sono soprattutto i perni più importanti, così citiamo anche qualche auto, facciamo brillare gli occhi e urlare le orecchie dei collezionisti all'ascolto. Certo. Allora la mostra si chiama L'automobile italiana 1899-2009. Noi abbiamo scelto proprio dei pezzi molto prestigiosi ed unici che rappresentano l'industria automobilistica italiana. Fra questi esponiamo una Lancia Astura 1000 Miglia del 1938, che è un esemplare unico costruito appositamente per Luigi Villoresi per fare la 1000 Miglia. Villoresi, famoso pilota che è amico anche di Ascari, è una persona che ha condotto poi l'automobile anche in numerose gare storiche. Sì. Poi abbiamo una unica, sempre inedita, Alfa Romeo 6C 1750 Gran Turismo Compressore del 1931, carrozzata da Castagna. Ecco, ricordiamoci che l'Alfa Romeo nella sua storia ha reso grande proprio la nostra nazione, e soprattutto a livello sportivo. Ancora oggi i maggiori collezionisti di auto d'epoca nel mondo desiderano queste Alfa Romeo, in particolare la 6C 1750. Questa ha anche vinto un prestigioso premio d'eleganza in Francia, il Louis Vuitton Classic. E poi il Louis Vuitton Classic, e non dimentichiamo che quest'anno a Villa d'Este, forse il secondo concorso di eleganza più importante d'Italia, ha vinto un'altra Alfa Romeo 8C di proprietà di un americano, meravigliosa, del valore di alcuni milioni di euro. Quindi è la regina del momento, perché ha vinto anche l'altro grande concorso di Pebble Beach. Poi ci sono anche delle Maserati, delle Lancia e delle Ferrari, Silvia. Sì, e anche abbiamo voluto esporre delle Fiat, perché noi non dimentichiamo che comunque Fiat ha prodotto anche delle vetture fuori serie, quindi con autotelaio e carrozzerie speciali, come per esempio una bellissima Fiat 1100 carrozzata da Castagna che noi esponiamo, con un particolare brevetto visto tal, e addirittura un parabrezza senza montanti e tutti gli interni in plexiglass, oltre a presentare una carrozzeria assolutamente prestigiosa. We'll be right back. 4. Ruote e dintorni. Stiamo parlando con Silvia Nicolis del Museo Nicolis qui in Lombardia, vicino a Brescia, vicino a Bergamo, vicino a Milano, nella zona nord, dove vi consigliamo di venire a vedere una mostra, Il mito dell'automobile italiana. Pensate, le auto più belle mai costruite dal 1899 fino al 2009, fino ad oggi, ma tutte costruite made in Italy. Abbiamo già citato alcune auto, dobbiamo finire questa rassegna importante, Silvia. Sì, allora abbiamo ancora esponiamo una Maserati 3005 Gran Turismo del 1960, anche questo fu un grande successo commerciale per la Casa del Tridente, disegnata da Giovanni Michelotti, ancora oggi uno degli spider più ambiti e più desiderati. Ritornando poi su marchi come Lancia, abbiamo addirittura un'altra vettura assolutamente inedita del 1911, una Lancia Beta con una carrozzeria anteguerra, dove si possono ancora ammirare i fanali a carburo piuttosto che l'avviamento manovella, un particolare acceleratore al volante, dei particolari che oggi a noi sono assolutamente sconosciuti. Poi ancora Fiat 1500 carrozzata Bertone, altro esemplare fuori serie, Maserati Ghibli, Maserati Indy, piuttosto che una bellissima Ferrari 250 del 1963, ricordiamoci che è stata la prima Ferrari 2 più 2 prodotta in serie, grazie all'abilità di Pininfarina, per cui anche qui ripercorriamo proprio la storia e il valore delle nostre tradizioni. È un po' questa l'intuizione, quindi raccontare una storia attraverso le sue esperienze migliori dal punto di vista progettuale da una parte, costruttivo dall'altra. Queste sono le auto più belle. Direi di chiudere, Silvia, con i prezzi che si pagano per entrare al Museo Nicolis e vedere questa meraviglia e anche gli orari. Ricordiamolo, la mostra dedicata alle migliori auto costruite in Italia in più di 100 anni, 110 anni nel dettaglio, è aperta fino al 30 ottobre. Sì, allora ancora una volta il Museo Nicolis si trova a Villafranca in provincia di Verona, l'orario è orario continuato dalle 10 alle 18 tutti i giorni ed è chiuso il lunedì. Il costo d'ingresso è di euro 10 il biglietto intero, euro 8 ridotto, 4 i bambini dai 6 ai 10 anni. E ecco, magari mi permetto di invitare tutti gli ascoltatori di questo programma a presentarsi alla reception con la parola chiave Radio 24 e così potranno usufruire direttamente dell'agevolazione ridotta. Beh, un'ottima idea, grazie per questa improvvisata che mi auguro molti coglieranno al volo. Già che ci siamo, non gliel'ho chiesto ma ci tengo in chiusura, Silvia, un po' di storia del Museo Nicolis. Sì, il Museo Nicolis è un progetto unico in Italia, nasce dalla grande passione di mio padre. Sono 6.000 metri quadrati di esposizione, non ci sono solo auto ma sono 7 le collezioni, quindi moto, bici, strumenti musicali, macchine per scrivere, macchine fotografiche e molto altro. Ripercorriamo proprio tutta la storia dell'ultimo secolo e tutta l'applicazione dell'ingegno dell'uomo che ci ha portato sino ai giorni nostri. È un museo privato e gestito come un'impresa culturale, per cui all'interno del museo si sviluppano tutti i servizi congressuali, turistici, didattici. Quindi invitiamo anche le scuole, le famiglie e anche gli imprenditori, tutti coloro che desiderano andare all'interno di una location inedita ed esclusiva per un'esperienza del tutto straordinaria. Va bene, grazie davvero a Silvia Nicolis del Museo Nicolis, a presto e buona serata Silvia. Grazie a voi, arrivederci, buonasera. Allora, dopo questa bella esperienza virtuale per ora, ma insomma andate a visitarlo, credo ne valga davvero la pena, anch'io andrò, vorrei parlarvi di talenti. Noi cerchiamo sempre di sentire i grandi piloti, ma non dimentichiamo i giovani, che sono quelli che vanno aiutati maggiormente, sono quelli che poi saranno i grandi piloti di domani. Abbiamo al telefono una giovane promessa, va detto, perché porta intanto la nostra bandiera in Asia, porta la nostra bandiera in tutto il mondo, ha già una certa esperienza, diverse centinaia di migliaia di chilometri sulle spalle, un pilota GP2, si chiama Davide Valsecchi. Allora, caro Davide, intanto buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. Davide, vogliamo fare una presentazione agli ascoltatori di Radio 24, abituati ormai a sentir parlare di motori e di piloti. Chi è Davide Valsecchi? Davide Valsecchi è un ragazzo di 22 anni che corre nel campionato GP2, cioè il campionato che precede il campionato di Formula 1. Tutti i piloti che riescono ad arrivare nei primi 3-5 posti sembra che sfondino e che riescano a raggiungere la Formula 1. Questo non solo perché è la serie numero 2 rispetto alla Formula 1, ma perché ci sono delle attinenze anche tecniche e di guida rispetto alla Formula 1. Ci vuoi dire esattamente in che cosa è una buona scuola la GP2? Sì, è una buonissima scuola. In parole semplici, la macchina è più o meno simile a una macchina di Formula 1, con meno tecnologia per limitare i costi e tutto il resto. Però è una formula con un motore da 600 cavalli e più o meno tutti i piloti di Formula 1 vengono da lì in precedenza, hanno vinto, hanno partecipato ai massimi livelli nel campionato GP2. Molto bene, senti Davide, ci racconti allora come sta andando quest'anno, qual è l'ultima gara che hai fatto e qual è la prossima? La prossima gara che farò sarà nel circuito cittadino di Valencia, che l'hanno inaugurato l'anno scorso per la prima volta. Penso di partecipare con un ottimo team, perché faccio parte dei piloti giovani della Renault, e perciò sono loro che decidono per me in questo momento, e sembra che mi spostino dal mio team, che il mio team è Durango, è il nome, di Venezia, mi spostano in un team spagnolo che è proprio ai vertici, perciò spero di avere questa occasione. Certo. Perché Piquet verrà sostituito in Formula 1, pare che Piquet venga sostituito da un ragazzo di GP2 che si chiama Grosjean, un francese, e io prenderò il suo posto, perciò spero di sfruttare al massimo l'occasione di stare nei primi. Davide, questa è una buona notizia che ci dai. In parte certi rumors internazionali già c'erano in effetti, però tu ce li dai quasi per certi, per scontati. Dovrebbe essere per certo, io lo spero veramente. Dalla gara di Valencia penso che Piquet perda il posto ai danni di un ragazzo giovane. Va bene. Senti, quanto conta nel vostro ruolo, sebbene così giovani, riuscire, Davide, a rimanere calmi con pressioni che vanno al di là della pista? Pensiamo ai manager con i loro giusti, corretti interessi economico-finanziari, pensiamo alla vostra fame, alla vostra sete di volante, vedo, di sponsor. Vedo che te intendi, è vero, perché sì, fuori dalle gare c'è sempre un sacco di altre cose. Però conta tantissimo rimanere calmi, perché a volte ti danno un'occasione, come nel mio caso, e magari te la danno solo per 3 weekend, no? Per un mese e mezzo. In quel mese e mezzo devi far vedere quanto vali, perché hai 3-4 gare per dimostrare il tuo valore. Se vai bene ti cambiano la vita, se non vai bene sei fregato, però hai perso una grandissima occasione, una delle poche che di solito passano. Qualcuno punta l'indice contro i piloti giovani di oggi. Tu sai che anche in Formula 1 ci sono addirittura dei piloti della tua età, forse uno o due anche più giovani. Tu cosa pensi di questa mancata gavetta rispetto a tanti anni fa, in cui uno arrivava in Formula 1 sui 25 e andava avanti? Adesso quando uno vince i campionati migliori 25-26 anni dicono che ha vinto perché è troppo vecchio, perciò non so, sembra che i piloti migliori adesso siano quelli giovani che vincono subito, quelli già pronti immediatamente. Però c'è da dire che ad esempio Vettel sta facendo un grandissimo campionato di altissimo livello, e questo ragazzo qua ha appena compiuto 22 anni ed è un vero e proprio talento. Perciò io dico che ci sono anche piloti magari abbastanza vecchi, tipo gli italiani di adesso, Fisichella e Trulli, che magari in uno o due anni lasciano il posto a qualcuno di più giovane e più forte. Beh, comprensibile da parte tua, insomma, questo sgomitare per arrivare in prima fila, è chiaro. Senti Davide, chi è che ti ha insegnato a guidare? No, chi è che ti ha insegnato? Guidare è difficile, o uno ce l'ha o è difficile impararlo, No, ma però da quando ero piccolo, ero ragazzino, 4-5 anni, mio padre per Natale mi ha regalato un kart da cross che si girava nei prati, e così pian piano, all'inizio era solo per gioco, una volta ogni tanto, poi abbiamo visto che ero bravo, che ero portato, che avevo talento, che le gare vincevo, e così si va avanti piano piano, finché è diventato un lavoro. Decisamente. Allora, Davide ha anche un sito, davidevalsecchi.it, a cui vi riferiamo per le foto, i contatti, per quant'altro. Ci racconti la invece vita personale di un pilota così giovane? Per esempio, tu dove vivi, quanti spostamenti fai? Viaggi spesso? Sì, quest'anno abbiamo viaggiato parecchio, perché il campionato GP2 si è diviso in due parti. Uno faceva la serie asiatica, che seguiva le gare, in pratica le gare asiatiche della Formula 1, Cina, Dubai, Bahrain, e Malesia. Il secondo campionato invece è quello che segue le gare europee della Formula 1, che sono 10 weekend, perciò abbiamo dovuto fare quasi tutte le trasferte, e quando si va in Malesia così bisogna stare in aereo 18 ore, 16-17 ore, perciò è un po' pesante. Ma c'è il fatto che quando uno guida a questi livelli è un'emozione unica e tutti darebbero qualcosa solo per provare. Insindacabile, l'hai detto, vale, è chiaro. Vale la fatica e l'impegno, solo i 20 minuti che guidi vale tutto il resto. Molto bene. Senti Davide, chiudiamo con un'ultima domanda. Un minuto per raccontarci la tua preparazione atletica. Quanto sono difficili fisicamente da guidare le auto di oggi, oppure un po' come succede per strada l'elettronica, che nel vostro caso in realtà è tutta da discutere perché c'è mancanza alle volte di elettronica, per regolamento vi aiuta? L'elettronica nel nostro campionato non c'è, perché per diminuire i costi hanno praticamente ridotta quasi a zero, così il volante è, perché in Formula 1 esiste il servosterzo, cioè il volante diventa più morbido, e invece da noi no, tutta la fatica del pilota. Però quando uno pensa che guidare non sia faticoso, invece si sbaglia. Solo a fare 5 minuti o 10 minuti con i kart a noleggio, quando ci va a divertirsi con gli amici, ci si rende conto che dopo 10 minuti si ha male le mani o si è stanchi e al fiatone, perché quello che stanca veramente è la concentrazione, la staccata al punto giusto quando arrivi a 200 all'ora, è rimanere concentrati, perciò ti stanca fisicamente. Io per tenermi allenato corro poca palestra, tento di fare esercizi aerobici tipo corsa, bicicletta, così. Ottimo. Solo per mantenere un peso giusto. Bene, e bene. Concentrazione quando si è stanchi. E tenerti in forma. Senti, sì. Allora, in bocca al lupo per il tuo futuro. Ricordati che Radio 24 ti ha pescato quando eri in GP2, e quando sarai in Formula 1, mi raccomando, non negarci le interviste, capito? Ma in Formula 1 vengo a cercare io. Vi ringrazio. Va bene, grazie. Buona Davide Valsecchi, a prestissimo. DavideValsecchi.it. Quattro ruote e dintorni. Ed ecco che arriviamo ad uno dei piatti forti di questa puntata. Ve lo avevo accennato: Lamborghini Murcielago super veloce, campeggia anche sulle copertine di alcuni mensili attualmente in edicola, perché si sa, quando Lamborghini fa qualcosa di nuovo se ne parla, ne parliamo volentieri tutti. Quando si tratta della Murcielago, insomma un po' il punto di arrivo per tutti in questo settore, ne parliamo ancora più volentieri. Abbiamo voluto due voci per parlarne, non manca certo Marco Perucca di Quattro Ruote, che ormai è il nostro tester per quanto riguarda le top car. Caro Marco, buonasera e bentornato. Buonasera Roberto e un saluto a tutti i radioascoltatori. E poi ci piaceva far introdurre proprio questo prodotto, visto che è così particolare, dalla voce di Maurizio Reggiani. Maurizio Reggiani è il direttore di un reparto importante, Lamborghini, ed è il reparto ricerca e sviluppo. Quindi è colui, uno dei papà, possiamo chiamarlo così, delle auto che vengono sfornate in realtà da un team nutrito di progettisti e ingegneri. Caro Maurizio, buonasera anche a lei. Buonasera Roberto, buonasera a tutti gli ascoltatori. Do del tuo ad entrambi. Marco lo sento più spesso, Maurizio tu meno, però insomma quando vorrai sarai nostro gradito ospite. Maurizio, ti chiedo, per gli ascoltatori amanti di motori, un'introduzione importante, interessante a questa Murcielago, l'ultima Murcielago. Parliamo sicuramente del prodotto più estremo che abbiamo realizzato su piattaforma Murcielago, e praticamente parliamo di una vettura in cui abbiamo aumentato la potenza del motopropulsore a 670 cavalli, e una delle attività più importanti è stata quella di raggiungere un alleggerimento del veicolo di 100 kg. Questo ci ha permesso di definire quello che per noi è una delle strategie del futuro, il rapporto peso-potenza, che è veramente il top di classe, con 2,3 kg su cavallo, che permette alla vettura di essere dinamica, di raggiungere accelerazioni spaventose e in termini di handling puro di essere veramente al massimo delle prestazioni. C'è già un dato importante in quello che dici Maurizio, mi fa piacere, perché gli ascoltatori che ci seguono costantemente sanno che esattamente da 6 mesi, quando proviamo un'auto, cioè ogni settimana insieme agli amici di Quattro Ruote, richiedo espressamente il numero dei cavalli ovviamente, ma anche il peso del veicolo. Davvero convinto anch'io come te che quello sia un po' il nocciolo per un'auto: meno chili ci sono e meno chili devono spingere i cavalli. cavalli. Di solito, ovviamente, tu lo puoi immaginare, trattiamo auto che vanno dai 5-6 kg ogni cavallo fino a 12-13 per le utilitarie più molli, tra virgolette. Qui, signori, siamo di fronte a ogni cavallo di quest'auto, la Lamborghini, che spinge solo 2,3 kg. Allora, che effetto fa questa spinta? Lo chiediamo a Marco Perucca. Marco. Beh, insomma, la Murciélago è un'auto veramente sopra le righe, non ce n'è un'altra così in commercio, e quest'ultima versione, la SV, è ancora, se possibile, più straordinaria. È un'auto con cui io ho girato anche in pista a Nardò, è un'auto con cui si arriva a 340 all'ora di tachimetro, ma ce n'è ancora un pochino, con una facilità straordinaria. Questo lo dice tutto, perché è comunque un'auto stradale con cui, con un po' di buona volontà, si può girare tranquillamente sulle strade, e quindi è veramente fuori da ogni possibile immaginazione. Gli altri dati, beh, lo 0-100 viene dichiarato in 3-2, ma non ho dubbi che lo si possa fare, ci abbiamo provato anche con la precedente Murciélago, avevamo fatto un 3-3, quindi questa farà 3-2 sicuramente, quando avremo modo di provarla, e lo 0-200 è attorno agli 11 secondi, quindi anche qui sono limiti, diciamo prestazioni che non hanno alcun riferimento con quelle che sono le auto di tutti i giorni. Prestazioni che si raggiungono attraverso alcune caratteristiche, Maurizio, che puoi spiegare, dalla cilindrata ai cavalli al regime di giri a cui gira il motore. Certamente, parliamo del classico Lamborghini V12 da 6,5 litri, e diciamo questo promoto propulsore è in grado di erogare la potenza massima sugli 8100 giri al minuto, e diciamo che l'improvement che è stato fatto dalla versione standard della Murciélago, diciamo di produzione normale, all'SV, è stata fatta principalmente con una ridefinizione di tutto il sistema d'aspirazione, quindi condotti testa e collettore d'aspirazione con camme specifiche, e riducendo la contropressione allo scarico, che ci ha permesso proprio di tirar fuori quegli ulteriori 30 cavalli che fanno sì di avere prestazioni che sono veramente allo stato dell'arte del motopropulsore. Abbiamo già detto, Maurizio, che è una edizione speciale, ma è anche limitata, oppure voi siete pronti ad accogliere gli ordini e a produrre la vettura? Siamo pronti ad accogliere ordini, a produrre vetture, anche se sappiamo che in questo intorno di prezzi e di quant'altro il numero di clienti che se possono approcciare non sono sicuramente così tanti come possono essere una Murciélago normale. Parliamo di una vettura veramente al top delle performance, quindi che richiede sicuramente chi ha passione per l'automobile, chi ama l'automobile e ama le prestazioni di questa. Marco, chissà se c'è qualcuno all'ascolto che si ricorda una delle primissime prove che facemmo insieme noi a Vairano nella vostra pista di quattro ruote. Chissà se tu ti ricordi, entrai col microfono della nostra radio dentro l'abitacolo e il risultato, dopo due giri meravigliosi, devo dire che tu facesti in quell'occasione, il risultato fu clamorosamente zero, nel senso che la registrazione non era avvenuta in maniera corretta, perché la gabbia, l'abitacolo, era ovviamente un insieme di onde e di diciamo così parametri tecnologici che influivano sulla corretta registrazione del nostro audio. Dovemmo fare a meno di quelle emozioni. Questo è un riferimento per la tecnologia. Tu credi che un'auto così estrema davvero si avvantaggi molto della tecnologia per renderla, tu hai detto, con un po' di buona volontà, guidabile anche in strada? Sì, anche se qui siamo in un campo veramente diciamo estremo, per cui anche qui l'elettronica non è così presente come su altri Gran Turismo sportive di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti. Sì. C'è solo un controllo di trazione che è parecchio conservativo, quindi taglia parecchio, e per cui in pista, diciamo, si stacca tutto e si va liberi, e quindi un'auto di questo genere richiede ovviamente una guida diciamo attenta, preparata, tecniche di guida che non sono comuni. Su strada ovviamente i problemi maggiori sono dati dalla forma della carrozzeria. Dietro non si vede praticamente niente, la macchina è larga più di 2 metri, più larga dietro che davanti, insomma si ha paura di toccare da qualunque parte si passi, e, insomma, ci vuole un po' di attenzione sicuramente. Però da quella Murciélago che tu avevi guidato, avevi provato con me, a questa ci sono stati fatti passi enormi, soprattutto non solo nel motore, che veramente questa ha una rabbia e una cattiveria che quell'altro non aveva, ma soprattutto nel bilanciamento complessivo dell'auto, nella frenata con i dischi carboceramici che fanno veramente la differenza, l'equilibrio della vettura, insomma è un'auto nettamente diversa da quella. Infatti Maurizio, sarai d'accordo sul fatto che non ha molto senso parlare ovviamente di guida in città. Ci vuoi dire chi è il target preciso di questa vettura così estrema e a cui avrete pensato prima di progettarla? Sicuramente è il classico cliente Lamborghini che ha passione per la meccanica, passione per le prestazioni del veicolo ed è in grado di apprezzare i cambiamenti che ci sono nell'evoluzione della specie, chiamiamola così. Per cui è quel cliente che percepisce in maniera spaventosa i 100 kg di riduzione massa che abbiamo messo nel veicolo, quindi che permettono di avere nell'handling, nell'impostazione, anche nell'uso fuori pista, quindi nel classico tornante di collina o di montagna, è in grado di apprezzare la dinamicità del veicolo, è in grado di apprezzare la ripresa, l'accelerazione, la prontezza in cui si viene fuori da un tornante e in cui si ritorna ad accelerare, e nello stesso modo quando si va a frenare, come diceva prima Perrucca giustamente, il fatto di avere questa riduzione della massa, avere questo impianto frenante ancora più esuberante, permette veramente di poter apprezzare al massimo il veicolo, avendo la percezione di controllarlo e di avere un qualche cosa che fa esattamente quello che tu vuoi. Qual è il peso preciso, se 2,3 sono i chili che si porta dietro ogni cavallo, Maurizio? Siamo sui 1530 kg. E rotti chili, tanto per capire, sì, è un'auto così prestazionale che monta un 12 cilindri che pesa comunque come... Esattamente, e la cosa importante, se posso aggiungere una cosa, è che questo alleggerimento è stato fatto non a scapito di contenuti, ma è stato fatto introducendo tecnologie completamente nuove, in particolar modo parliamo di materiali compositi, che hanno permesso di alleggerire il veicolo senza rinunciare a quelle che sono comfort o componentistica che fanno parte del veicolo base, quindi è stato un alleggerimento fatto lavorando sulle tecnologie e non sull'impoverimento della vettura. Decisamente. Senti Marco, un ultimo consiglio per gli ascoltatori, per chi volesse guidarla nel suo habitat naturale, la pista, che cosa possiamo consigliare? So che oggi alcune piste hanno abbassato i prezzi per i turni liberi, ma poi in realtà ci sono anche dei fan club di Lamborghini che immagino, come succede per altri brand importanti, organizzino delle domeniche in pista, vero? Sì, diciamo che è un argomento, è un campo, mi coglie un po' impreparato su questa cosa, credo però sì che ci sia la possibilità di andare in pista in modo sicuramente più facile, più semplice di un tempo. Io posso dire, si può sempre noleggiare a mezza giornata il nostro impianto di Vairano e divertirsi tutto, e divertirsi, certo, nella massima sicurezza. Decisamente. Però, sentiamo Maurizio se sa se voi organizzate i Lamborghini dei giri di pista proprio su qualche circuito. Maurizio. Diciamo che Lamborghini ha una Lamborghini Driving Academy dove clienti e anche non clienti possono approcciarsi sia come neofiti ma anche come piloti esperti ai nostri veicoli. E in questo caso sono a disposizione i nostri collaudatori e personale specializzato che li aiuta ad apprezzare e ad usare veramente la vettura passo dopo passo fino a portarla vicino al limite di quello che può essere la vettura in diverse piste sia in Italia che nel resto dell'Europa. Molto bene, allora grazie davvero Maurizio Reggiani, direttore ricerca e sviluppo di Lamborghini. Grazie Maurizio, a presto e buona estate. Grazie anche a voi e buona serata a tutti. Se poi andate in pista a Vairano trovate anche Marco Perrucca, che se non è una Lamborghini guiderà una Ferrari, se non è una Ferrari una Porsche. Brutta vita la tua, Marco Perrucca. Grazie e buona estate. Arrivederci a tutti. Per guidare una Lamborghini bisogna avere tutti i punti sulla patente, anche di più se possibile. Mi raccomando, state attenti, c'è un compleanno di cui tener conto, è quello della patente a punti, 6 anni, l'1 luglio 2003, quindi più di un mese fa. Ma abbiamo fatto dei conti con Mario Rossi di Quattro Ruote che è al telefono. Caro Mario, buonasera e bentornato. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Hai analizzato molte statistiche, ci vuoi dare qualche numero su questi 6 anni di patente a punti? Perché alcuni sono proprio curiosi, Mario. Sì, 6 anni di patente a punti, il dato più significativo è che quelli che perdono punti sono una minoranza. In realtà su 35 milioni di patenti attive in Italia solo 9 milioni, poco più di 9 milioni hanno perso punti, sono in realtà 26 milioni quelli che hanno la patente a punteggio pieno e che quindi hanno preso i 2 punti omaggio per la terza volta consecutiva. Questo non vuol dire, soprattutto su base europea, che gli automobilisti italiani siano ligi alle norme, però vuol dire che è un meccanismo un po' particolare. Tra l'altro regala dei punti, vogliamo ricordarlo ai pochi distratti che si troveranno 2 punti in più, magari senza saperlo, sulla propria patente nel caso negli ultimi 24 mesi fossero stati vergini da decurtazione. Esatto, Il meccanismo è molto premiante: chi ha meno di 20 punti dopo 2 anni di buona condotta torna automaticamente a 20, chi ne ha almeno 20 dopo 2 anni di buona condotta ne prende 2 punti in omaggio fino a un massimo di 30. Il dato significativo appunto è che da quando esiste la patente a punti, dal 2003, in realtà i punti persi sono stati pochissimi, appena 51 milioni, poco più di 51 milioni, il dato non è definitivo, contro appunto quelli dati in omaggio in un colpo solo al compleanno della patente a punti, che sono stati 52 milioni. E il problema si fa per dire, il fatto è che c'è un'uscita di sicurezza, no? La maggior parte delle multe arriva a casa, soprattutto quelle che prevedono tanti punti, fatte con strumentazione elettronica. Ruote e dintorni. Stiamo facendo i conti alla patente a punti che l'1 luglio scorso ha compiuto 6 anni dalla sua introduzione, era l'1/7/2003 quando se la sono inventata, e ci sono dei numeri particolari. Mario Rossi di Quattro Ruote ci sta aiutando. Parlavi di vie di uscita che rendono la patente a punti un po' particolare, un po' strana, Mario. Sì, perché appunto nel caso in cui il verbale arrivi a casa e quindi il proprietario del veicolo debba comunicare chi è stato il trasgressore per quella violazione, in realtà una uscita di sicurezza, diciamo così, può non comunicare al Ministero i dati del trasgressore. In questa maniera ovviamente nessuno perderà i punti, e questa uscita di sicurezza però costa un bel po', perché 200 viene punita con un altro verbale aggiuntivo rispetto alla multa originale, 263 euro più spese di accertamento e notifica. Questa è l'uscita di sicurezza. Eh sì, che rischia di invalidare un pochino, e soprattutto è anche un po' antidemocratica. Chi ha quelle 260 euro da buttare via non viene decurtato, chi non li può proprio tirare fuori deve fare a meno dei suoi punti. Insomma, vedremo se con il nuovo codice della strada migliorerà un pochino questo gap. Donne e uomini, chi sono i più bravi e chi i più cattivi sulla strada? Le statistiche nascondono, vanno un po' interpretate, però diciamo che le donne sono sempre più indisciplinate, perdono meno punti degli uomini, però la loro indisciplina sta aumentando. I punti persi dalle donne erano il 19% nel 2003 e stanno progressivamente salendo, nel 2008 hanno raggiunto il 27%, quindi si stanno lentamente avvicinando. Ah, però, questo non me lo aspettavo. E poi province migliori e province peggiori, poi ci salutiamo. Province migliori, province peggiori, anche questo dato va interpretato. Noi abbiamo fatto un conteggio sulla base delle patenti attive nella provincia, quindi i punti persi in rapporto alle patenti, e le peggiori, tra virgolette, province sono risultate Modena, Ferrara, Ravenna, Rovigo e Rimini, quindi soprattutto Emilia Romagna, soprattutto Nord. Migliori, tra virgolette, quelle dove si perdono meno punti in rapporto alle patenti, quelle del Sud, Cagliari, Sassari, Avellino, Lecce e Brindisi. Questo come saldo non vuol dire che al nord siano più indisciplinati, al sud certo. Più disciplinati, però è un dato interessante, proprio perché appunto la maggior parte dei punti si perdono con accertamenti automatici, quindi è ovvio, dove ci sono più accertamenti è più facile perdere punti. Appena si assesta la questione nuovo codice della strada, analizzeremo bene tutti i dettagli, Mario, e ci sentiremo fra pochissime settimane, direi, per far capire ai nostri ascoltatori al meglio quali sono le nuove norme, dove si perdono più punti, dove in qualche caso se ne perdono un pochino meno. Ok, grazie Mario Rossi. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Buonasera. Ultimo argomento della puntata di oggi, una buona notizia. Visto che ci occupiamo sempre delle cattive notizie di mercato, c'è chi invece si comporta bene. Pensate, più 50% rispetto al fatturato dell'anno prima. Attenzione, stiamo pure parlando del settore automobilistico. Subaru Italia, bisogna parlarne con il direttore marketing e pubbliche relazioni di Subaru Italia, si chiama Alberto Zambelli Rain, e gli abbiamo chiesto intanto qualche delucidazione sul loro anno economico-finanziario per capire che cosa contano, in quanto tempo esattamente. Allora, l'anno finanziario diciamo parte da aprile e finisce a marzo. Sì. L'anno finanziario fiscale. Dopo c'è, chiaramente noi valutiamo anche l'anno solare. L'anno fiscale è andato molto bene l'anno scorso, abbiamo fatto addirittura un 52% in più di fatturato rispetto all'anno precedente. Ecco, ci si potrebbe fermare qui perché è un dato veramente clamoroso. Vediamo di analizzarlo da vicino, dal 1 aprile 2008 al 30 marzo 2009. Beh, diciamo che tendenzialmente c'è una ragione. Prima di tutto abbiamo una fedeltà della clientela molto elevata, oltre il 90% riacquista Subaru. Siamo famosi per essere i primi a aver effettuato in serie vetture a quattro ruote motrici e l'anno scorso sul mercato abbiamo lanciato diversi nuovi modelli. Di conseguenza, oltre ad avere la nostra normale clientela, abbiamo avuto anche un allargamento della clientela di altri clienti che hanno approcciato a noi con vetture nuove. Già questo spiega il mantenimento, però addirittura queste quote in più in un anno, ripetiamolo, davvero difficile per molti costruttori, indica secondo lei una strategia o anche una localizzazione geografica, guardando cosa fanno i suoi colleghi in Subaru in giro per il mondo? Beh, diciamo principalmente determinata da una novità. Noi siamo caratterizzati, diciamo, per le quattro ruote motrici, il sistema a trazione integrale e il motore boxer, motore diciamo particolarmente equilibrato e simmetrico, ma a benzina fino all'anno scorso e avevamo solamente modelli a benzina. L'anno scorso abbiamo invece lanciato un motore boxer diesel, è l'unico boxer diesel al mondo, e di conseguenza abbiamo allargato notevolmente la nostra fascia di clientela, perché chi prima ci acquistava solo perché avevamo benzina o GPL, oggi ci acquista anche perché abbiamo una motorizzazione diesel. E sicuramente questo ha ampliato il vostro target. Senta, passiamo un attimo all'Italia nel dettaglio. Ha già detto i risultati clamorosi. Vediamo se ha qualche altro numero, quante vetture, per esempio, Subaru Italia in un anno riesce a vendere alla clientela del nostro paese. Beh, chiaramente noi abbiamo un numero abbastanza limitato di vetture, in quanto comunque sono di una categoria con un prezzo anche abbastanza elevato, con poco meno di 30.000 euro a macchina, quindi abbiamo venduto un 5.876 macchine l'anno scorso, di cui diciamo l'ha fatta un po' da padrona la nuova Forester con 2.100 macchine. Di cui si divide al 50% come motorizzazione diesel e un 50% come motorizzazione benzina, però in questo caso benzina B-fuel, quindi GPL benzina. Le chiedo una cosa difficile, mi rendo conto, ma è anche il suo mestiere. Che cosa succederà al mercato secondo lei in questo secondo semestre 2009? Sa che noi calcoliamo ovviamente gli anni di matricolazione da gennaio a dicembre, un po' diversamente da voi. Recentemente abbiamo sentito insomma di un mercato meno 11% i primi sei mesi, tutto complessivo, tengono le piccole e soffrono tutti gli altri. Secondo lei che cosa succederà entro fine anno? Ma appunto prima bisogna analizzare un attimo cos'è accaduto in questi primi sei mesi, che è un po' una cosa un po' strana. Noi siamo andati un po' in controtendenza, come diceva lei, cioè il mercato è appunto un 10,67% in meno i primi sei mesi, noi siamo un 17,36% in più rispetto all'anno scorso, di conseguenza nettamente in controtendenza. E devo dire che su 44 marchi che vendono qua in Italia, tra marchi italiani e esteri, solamente 9 sono in positivo in questi sei mesi. Quindi non siamo in tanti a essere in positivo e, come dice lei, sono soprattutto le macchine diciamo piccole, anche aiutate dall'incentivo statale a portare il mercato in questa situazione. Senta, direttore, che cosa preferisce secondo lei il pubblico italiano di Subaru? Lei ha detto Forester è un po' quella che tira, prima c'era benzina e GPL, adesso è arrivato il diesel e poi sicuramente questo motore boxster che hanno in pochi e voi siete gli unici ad averlo diesel. Ma davvero è una coerenza con i dati tecnici il motivo di scelta degli utenti secondo lei? Beh, l'utente, quello classico, il fedele cliente Subaru, sì, perché riacquista, come le dicevo, oltre il 90% riacquista Subaru, in quanto trova nella tecnologia nostra un qualcosa di particolare che dopo non può rinunciare, non può più farne a meno. E questo diciamo è la nostra forza del mantenimento della base. Chiaramente poi dopo c'è un allargamento. Diciamo che il Forester si è comportato molto bene, il nuovo Forester, e si è allargata il gradimento soprattutto al pubblico femminile. È piaciuto molto alle donne. Questo ci ha dato un discreto incremento su quella vettura. Però stiamo andando bene anche negli altri settori, sull'impresa che è diciamo conosciuta soprattutto per le attività sportive, e anche su Legacy e su Outback. Però insomma, chi la fa da padrona in questo momento è Forrest. Non le sarà sfuggito, su uno delle trasmissioni e dei mensili più conosciuti in tutto il mondo, Top Gear inglese, insomma, Jeremy, l'anima di Top Gear, una volta ha scritto un editoriale non troppo tempo fa, meno di un anno fa, particolarmente apprezzato e azzeccato, dicendo che di tante auto che ci sono e che uno potrebbe desiderare, secondo lui la Subaru Outback è il compromesso migliore. Che cosa ne pensa lei? L'ho visto anche, tra l'altro, il servizio, e devo dire che mi ha fatto anche molto piacere, e lo ritengo molto azzeccato, non solo perché io lavoro in Subaru e sono direttore marketing della Subaru, ma sono anche possessore di un Outback, perché ritengo che sia la macchina che diciamo dà di più, nel senso in generale, proprio come versatilità. Beh, non ci credo che se fosse la Honda lei andrebbe in giro con la Honda, da direttore marketing della Subaru. Probabilmente mi licenzierebbero. Ci sta, ci sta. Ultima cosa, direttore, una nota un pochino più sociologica, visto che lei si occupa appunto anche di marketing, non solo pubbliche relazioni. Molti si ricordano la vostra campagna advertising che diceva qualcosa come "e io invece mi faccio una Subaru" o qualcosa del genere. C'era quasi una contrapposizione in quelli che sono messaggi molto importanti per il pubblico. Vi chiedo se siete stati voi ad ideare con le vostre agenzie questo messaggio e che senso aveva. Sì, è stata proprio una nostra idea. Intanto, come lei ben sa, la pubblicità comparativa è nata tanti anni fa negli Stati Uniti, sì, e ha preso piede anche qua in Italia, ma soprattutto, se vogliamo, nella parte telefonica, sui telefonici, dove hanno fatto veramente dei confronti a livello di prezzi e così via. Questa era una maniera per differenziarsi dagli altri, dire "io mi differenzio dalla massa e invece mi prendo una Subaru". Questa è, diciamo, in maniera molto elegante una pubblicità comparativa, se vogliamo, però molto elegante. Devo dire che onestamente ha avuto successo e ci ha dato ragione. Bene, un grazie particolare ad Alberto Zambelli Rain, direttore marketing e pubbliche relazioni di Subaru Italia. Con la sua voce termina anche questa puntata, ma noi ci risentiamo fra 7 giorni esatti, sarà la sera di Ferragosto dopo i festeggiamenti o durante, se lo vorrete. Noi siamo qui dalle 21 alle 22 per tenervi compagnia. Giacomo Spunta in regia, Roberto Rasia vi ha parlato, vi augura soprattutto, oltre che un buon agosto, un'ottima guida sicura.